Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Ci siamo. Ci siamo anche quest'oggi con Eclettica, come tutti i giorni fra le 19 e le 20. Un benvenuto a tutti voi da parte di Giulio Caperdoni, che vi ricorda non solo il solito orario, ma anche la possibilità di ascoltarla in un altro orario, quello che preferite voi. Infatti c'è a disposizione il podcasting, tutti i dettagli su myspace.com/eclettica oppure su www.radiorockfm.com. Poi c'è Giulio e radiorockfm.com, l'indirizzo di mail a cui scrivere nel caso abbiate qualcosa da dirmi direttamente e non vogliate renderlo pubblico mettendolo sulla pagina di MySpace, oppure nel caso vogliate iscrivervi alla lista nera. Il mio indirizzo personale è sempre quello a cui scrivere, indicando la vostra intenzione di iscrivervi. Iscritti alla lista nera riceverete la playlist di Eclettica. Il mio primo impatto con il successo non fu per nulla memorabile. Facevo l'aiuto cameriere alla tavola calda di Marx. L'anno era il 1934. Il luogo, l'incrocio fra la Terza e Hill, Los Angeles. Avevo 21 anni e per me il mondo era delimitato a ovest da Bunker Hill, a est da Los Angeles Street, a sud da Pershing Square e a nord dal Civic Center. Ero un aiuto cameriere veramente unico, con grande verve e molto stile, vista la professione, e sebbene fossi terribilmente sottopagato, un dollaro al giorno più i pasti, attiravo una considerevole attenzione quando scivolavo fischiettando di tavolo in tavolo con un vassoio in equilibrio su una mano, strappando sorrisi ai miei clienti. Questo era l'incipit de I sogni di Bunker Hill, di John Fante. Living easy, living free, soon taking on the one-way ride. Asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme, ain't nothing I would rather do. Going down, party time, my friends are gonna be there too. No stop signs, speed limit, nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it, nobody's gonna mess me around. Hey Satan, paid my dues, playing in a rocking band. Hey mama, look at me, I'm on the way to the promised land. Dear Marty, if my calculations are correct, you will receive this letter immediately after you saw the DeLorean struck by lightning. First, let me assure you that I am alive and well. I've been living happily these past 8 months in the year 1885. The lightning bolt that hit the DeLorean caused a gigawatt overload, which scrambled the time circuits, activated the flux capacitor, and sent me back to 1885. The overload shorted out the time circuits and destroyed the flying circuits. Unfortunately, the car will never fly again. It actually flew. Yeah, we had a hover conversion done in the early 21st century. Incredible. Can't man this little Italian stand-up. You plastic cowards who limp my labor, I've tried. Reread the manual, mailed in the rebate, only to feel the bottom line inhaling my heels. Can't bet this box of stranger straight razors, loincloths and tool belts, can barely lift the thing. Is dead to my family, drunk on my junk mail. I am the only hole black enough to wolf your world. Abbiamo aperto con la Francia quest'oggi, siamo andati a riprendere la cover già passata del brano Highway to Hell degli AC/DC da parte della cantante jazz Karen Lanoe. Poi sono stati Stati Uniti e saranno ancora Stati Uniti, perché ci siamo ascoltati i Fog, nati come pseudonimo del leader della formazione Andrew Broder nel 1999 e poi diventati una band a tutti gli effetti. Fog da Minneapolis nel Minnesota, che ci siamo ascoltati con un estratto da quello che è il loro nuovo album per la Lex Records, un album a cui collaborano membri dei Low, dei Y, Andrew Bird, Dosh e fog per i quali mi piace una definizione che ho letto su The Wire. Immaginate i Cloud Dead che fanno una jam session con i Wilco con David Lynch a produrre. Fog che ci siamo ascoltati con il brano dal titolo Alleluia Daddy. Ed è una storia molto molto simile a quella che sto per raccontarvi, perché anche questo gruppo era nato come uno pseudonimo, come un solo project, fra l'altro definito un bedroom solo project, quindi da camera da letto, di Eric Michener, quello che ne è attualmente il leader. Poi è diventato un gruppo a tutti gli effetti, sono quattro i membri della formazione texana che per la precisione arriva dalla città di Denton e che incide per l'etichetta di nome Happy Happy Birthday to Me Records. Per questa etichetta sono usciti con un album dal titolo Albatross, dal quale vado ad estrarre Proper Name Spelling Bee. Era una casa grande, perché eravamo gente con progetti grandiosi. Il primo era già lì, una sporgenza all'altezza del suo punto vita, una cosa, dai movimenti sinuosi, striscianti e contorti come un groviglio di serpi. Nelle tranquille ore prima di mezzanotte appoggiavo il mio orecchio su quella zona e sentivo un gocciolio come da una sorgente, dei gorgoglii, dei risucchi e degli sciabordii. Dicevo... Si comporta proprio come il maschio della specie. Non necessariamente. Nessuna femmina scalcia così tanto. Ma non discuteva la mia Joyce. Quella cosa era dentro di lei e lei era remota, sdegnosa e beata. Questo era l'incipit di Full of Life di John Fante. Repair the damage to the time circuits. Unfortunately, this proved impossible because suitable replacement parts will not be invented until 1947. However, I've gotten quite adept at shoeing horses and fixing wagons. 1885. Amazing. I actually end up as a blacksmith in the Old West. Io possa essere dannato se non ti amo. E se così non fosse, l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spasmi. Avevo detto che l'avrei fatto e l'ho fatto. Sono andato a prendere un estratto diverso da 1419, quello che è il nuovo disco e solo un EP da parte di Paolo Benvenu. Di solito vi facevo ascoltare La Distanza e ancora vi farò ascoltare La Distanza da parte di Paolo Benvenu. Però quest'oggi ho voluto fare una scelta diversa che avevo già preannunciato. Sono andato a prendere un estratto che è una cover di un brano di Domenico Modugno, che Domenico Modugno aveva scritto per musicare uno degli episodi di Capriccio all'italiana, l'episodio diretto da Pierpaolo Pasolini, in cui recitavano artisti come Totò, come Ninetto Davoli, come Laura Betti, come Franco e Ciccio, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Adriana Asti, lo stesso Domenico Modugno che faceva Limondezzaro. Immagine indimenticabile. Ecco, mi è piaciuta molto questa interpretazione così intensa da parte di Paolo Benvenu e sono andato a riprenderla. Paolo Benvenu che fra l'altro con questo EP non è che abbia chiuso le sue nuove uscite discografiche, infatti ha già annunciato un intero album, un disco completo che si intitolerà Le Labbra e che uscirà a febbraio 2008. E dopo l'Islanda dei Sigur Rós e dopo l'Italia di Domenico Modugno e Paolo Benvenu arriva il momento della Germania, la Germania degli Einstürzende Neubauten, che sono usciti ormai da qualche settimana con un nuovo disco, Alles wieder offen, dal quale vi vado a far ascoltare Weil, Weil, Weil. Lückenlos reißt niemals ab. Was gerade ist, wird krumm gebogen. Was krumm ist, reden sie gerade. Weil, weil, weil und immer weil, weil, weil und immer weil, weil, weil und wieder weil. Von Gangreserve auf Zuckerpfoten getänzelt um den heißen Brei. Ihren Winter steckt der Möglichkeiten längst verbraten haben. Weil, weil, weil, so ist es, weil, weil, weil, so ist es, weil, weil, weil, immer weil. Weil, weil, weil, so ist es, weil, weil, weil, so ist es, weil, weil, weil, und wieder weil. Du merkst das, was nicht stimmen kann in den Mustern der Erzählung. werden im Getriebe abgerieben, die Ideen werden abgeseilt. Alles, was du lernst, ist doch nur rückwärts parken. Drum lass dir nicht von denen raten, die im Winterspeck der Möglichkeiten längst verbraten haben. Ihren Winter steckt der Möglichkeiten längst verbraten haben. Du musst die Sterne und den Mond enthaupten und am besten auch den Zar. Die Gestirne werden sich behaupten, aber wahrscheinlich nicht der Zar. Du musst die Sterne und den Mond enthaupten und ein bisschen